Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Siamo nella settimana conclusiva della conferenza sul clima di Parigi e mentre un accordo in grado di fermare il surriscaldamento entro i 2 gradi centigradi appare lontano, in Italia si avvicina sempre di più il fatidico tetto dei 5,8 miliardi di incentivi cumulativi, raggiunti i quali tutti i nuovi impianti di fonti rinnovabili, dall'eolico alle biomasse, rimarrebbero privi di qualunque forma di incentivazione o sostegno economico. Probabilmente a quel punto tutto il comparto si bloccherebbe in attesa della soluzione che arriverà non appena entrerà in vigore l'ultimo decreto in materia di cui si aspetta l'imprimatur europeo. Il decreto riguarda tutte le rinnovabili elettriche tranne il fotovoltaico, e cioè energia idraulica, solare termodinamica, eolica, moto ondoso, geotermia, biogas, bioliquidi e biomasse, categoria in cui ricadono anche alcune sottospecie di rifiuti. Ma intanto siamo a 5 miliardi e 745 milioni e inizia a serpeggiare un certo nervosismo. Si tratta di una cifra che viene prelevata attraverso la bolletta elettrica e che si va aggiungere ad altre voci di prelievo, tra cui la più significativa è quella per ripagare gli incentivi concessi in passato al fotovoltaico, circa 7,6 miliardi all'anno. Il tutto costituisce un peso già notevole per la bolletta e infatti il nuovo decreto non prevede modifiche ai tetti, ma un riconteggio che libera una parte degli stanziamenti già assegnati ma per diverse ragioni non usufruiti, riportando indietro questo contatore di circa 400 milioni di euro, andando a incentivare progetti in gran parte già presentati. Abbiamo raccolto l'opinione di Edo Ronchi, ex ministro dell'Ambiente e presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile, su questo decreto attualmente al vaglio della Commissione europea. Sentiamo. Bisogna invece arrivare a rivedere i tetti e le modalità di incentivazione delle FER elettriche, perché è lì che abbiamo il punto debole in questo momento. Non è necessario riaumentare le tariffe con incentivi in voce A3, si possono studiare altri meccanismi più raffinati, dall'autoproduzione alla priorità del dispacciamento, all'accumulo e anche alla generazione distribuita, che possono consentire uno sviluppo ulteriore delle ferie elettriche. Tutta questa parte va di nuovo rimessa in circolo, insomma, bisogna contrastare questo trend alla riduzione delle ferie elettriche, fonti rinnovabili elettriche. Per le biomasse starei più attento sull'origine di queste biomasse e non mi pare il caso che di incentivare un recupero energetico da rifiuti, perché la maggiore efficienza anche energetica la si ha nel riciclo dei rifiuti. Quindi diciamo il decreto non cura questi aspetti, intanto incentiva l'incenerimento, lei dice, o la termovalorizzazione, e non fa distinzioni rispetto all'approvvigionamento di biomasse. Esatto, qui bisogna stare molto attenti perché possono essere utilizzate biomasse di lunga, di provenienza molto lontana, okay, e quindi annullano il vantaggio, certo, della CO2 nel trasporto, e poi possono competere con la produzione agroalimentare, che è molto rischiosa. Lei ha sottolineato che è importante che l'ulteriore sviluppo delle FER elettriche un domani non continui a pesare, diciamo, sulla bolletta. Siamo arrivati a un punto oltre il quale forse non si può andare effettivamente. Questo penso di sì, che sia meglio non sovraccaricare le bollette. Diciamo, potremmo avere dei benefici indiretti nelle rinnovabili riconoscendo al carbonio il costo reale o maggiormente il costo che effettivamente ha le emissioni di carbonio. Se pensi ai danni che provoca la crisi climatica con l'aumento delle alluvioni e delle frane, e noi emettiamo carbonio praticamente gratis. Basterebbe mettere un prezzo, una carbon tax, che automaticamente si incoraggerebbero le rinnovabili, perché ovviamente la convenienza è il delta di differenza fra le fonti fossili e quelle rinnovabili. E ora che cosa succederà? Beh, se andrà tutto bene, cioè se non verranno ravvisate situazioni riconducibili ad aiuti di Stato non previsti dall'Unione Europea, per fine anno ci sarà il via libera e quindi il decreto diventerà attivo e arriveranno i famosi 400 milioni così attesi dal mondo delle rinnovabili, che così tirerà un sospiro di sollievo. E se invece emergesse un problema? In questa eventualità, che non si può assolutamente scartare, i tempi potrebbero allungarsi in maniera difficile da valutare, dato che dipenderebbero da una serie anche di questioni tecniche e così, per esempio, dall'iter che si andrebbe a seguire qualora l'UE chiedesse dei cambiamenti. Sta di fatto che in quel caso il tetto dei 5,8 miliardi verrebbe quasi certamente sforato, mandando in blocco un intero comparto già in difficoltà per la poderosa cura di Magrante, a cui è sottoposto da qualche tempo, dopo una altrettanto poderosa abbuffata. Ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani.